Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata. Intanto buongiorno a tutti. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri. Lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore. Se no, digitate Guardie o Ladri su qualunque motore di ricerca e vi appare il mio blog. Graditi, suggerimenti, insulti, minacce, tutto ciò che volete. Accetto tutto. Mi fa comunque piacere. Allora, voi ricorderete che alcune settimane fa abbiamo affrontato con l'allora direttore generale dell'ASL di Ragusa, Fulvio Manno, un caso molto interessante perché quell'ASL aveva addirittura anticipato alcune discipline, regole, ferre, antifannulloni, promosse e sbandierate poi con la gran cassa dal ministro Renato Brunetta, ed è notizia di alcuni giorni fa, secondo la quale poi quelle norme in realtà sarebbero state poi tutto sommato disattese, cancellate, insomma c'è anche un pasticcio normativo, poco si capisce. Però Manno in quell'ASL operava secondo coscienza, talmente secondo coscienza che con la riforma dei vertici dell'ASL il governatore della regione siciliana Lombardo ha pensato bene di rimuoverlo, e oggi l'avvocato Manno è un tranquillo ma attento cittadino ragusano, talmente attento che ci ha mandato una mail, a questo punto è un semplice radioascoltatore, veramente straordinaria, in cui racconta un fatto che se non fosse vero ci sarebbe da ridere. Un fatto che deriva da una sentenza, o meglio, da una decisione del giudice per l'udienza preliminare che ha rigettato una richiesta di rinvio a giudizio. Ora sentiremo di cosa si tratta, definendo, quasi immaginando nel codice, un nuovo reato che sarebbe permesso e lecito. Mi diverto a dire questo, e poi sentiremo anche ovviamente il giudizio di un amministrativista: il peculato e la truffa breve. Ecco, chiamiamola così, il peculato breve e la truffa breve sarebbero ammessi. Ma sentiamo questa storia incredibile dalla viva voce del dottor Manno. Buongiorno avvocato. Sì, buongiorno a lei, dottore Galullo, a tutti gli ascoltatori. Allora, racconti che cosa è successo a Ragusa. A giugno del 2006 sono stati pizzicati da me personalmente, in una zona dove non c'erano bar, due dipendenti amministrativi con la macchina di servizio. Siccome questi signori non avevano motivo di essere in giro, ho fatto fare una verifica sulla presenza e naturalmente appena sono rientrato in ufficio gli è stata fatta la contestazione, anche se ritengo che il famoso Radiofante li abbia avvertiti subito e quindi sono rientrati di gran premura. Ah beh, indubbiamente Radiofante funziona meravigliosamente. Ecco. Benissimo, quindi allora, lei li ha denunciati. Era mio dovere fare una relazione alla Procura della Repubblica di Ragusa, che intanto si erano allontanati senza timbrare il badge in uscita, quindi questo è il reato di truffa, e poi avevano preso la macchina di servizio per recarsi in una zona distante dall'ufficio. Benissimo. E quindi questo, c'è il peculato d'uso. Assolutamente. Quindi questi dipendenti tranquillamente, tanto va di moda, abbiamo visto in Sicilia, secondo alcuni, in Sicilia e in tutta Italia, per carità, anche secondo alcuni servizi mandati da Striscia la Notizia, va di moda, invece che essere al lavoro in comune, essere altrove, magari nella barca di un sindaco. Quindi lei li denuncia doverosamente, in maniera sacrosanta, come farebbe qualunque onesto cittadino, e arriva l'archivista. Scusi, questa cosa devo dirla perché mi ha fatto sorridere. Chi è l'archivista? Diciamo, la richiesta di rinvio a giudizio è arrivata dopo circa 3 anni, quando è arrivato il nuovo procuratore della Repubblica a Ragusa. Infatti ho fatto una battutaccia, dico, posto che qua in questa ipotesi non c'erano bisogno di fare indagini perché gli abbiamo mandato tutte le carte, e quindi le prove erano lì. Schiaccianti. Non c'era motivo di aspettare 3 anni per chiedere il rinvio a giudizio. Assolutamente no, ma lei perché non li ha fotografati? Manno, la colpa è sua, lei doveva fotografarli, video riprenderli. No, ma sono gli altri testimoni. Ma no, ma non basta, ma non basta, lei doveva fotografarli, immortalarli. Se no, lei capisce, insomma, è facile dire quello che lei dice. Ovviamente sto scherzando con lei, no, mi permetto, visto che la conosco da tempo. Sì, certo. E allora, il fatto non è stato negato dagli interessati, che però si sono giustificati dicendo che avevano bisogno, uno dei due, di fare colazione perché doveva prendere le medicine a un certo orario. E certo, come... è giusto, si va a distanza dall'altro capo della città per fare colazione. Esatto, come se non fosse un bar idoneo quello che c'è a 10 metri dall'ufficio. Oh, a un certo punto arriva il giudice per l'udienza preliminare. Esatto. Sul suo tavolo c'è la richiesta di rinvio a giudizio per la prima ipotesi, truffa, e per la seconda ipotesi, peculato. E il giudice per l'udienza preliminare che cosa dice? Allora, per quanto riguarda la truffa, è un'assenza breve, meno di mezz'ora, che rientra nel concetto di pausa caffè. Benissimo. E quindi il reato non sussiste. Quindi noi ci inventiamo la truffa caffè. E invece il peculato? Beh, il peculato dice è stata una sempre un utilizzo breve, temporaneo, e poi la macchina è stata riportata in azienda, quindi non è che se ne sono appropriati. E ci mancherebbe altro, magari potevano darle in prestito anche ai vicini di casa, già che c'erano, no? Sì, ma se se ne fosse approvato già diventava furto, un reato diverso. Certo. Non era più peculato. E quindi truffa caffè e peculato divertimento, che non possiamo esiste. Dire. Quindi praticamente dopo questa sentenza i dipendenti pubblici della provincia di Ragusa sono autorizzati a prendere la macchina di servizio, riunirsi in comitiva anche di 4-5 persone, e andare a fare una pausa caffè, purché sia inferiore a mezz'ora, in un altro capo della città. Mi raccomando, come Cenerentola, fate il countdown, quando mancano 60 secondi e 30 minuti cominciate ad affrettarvi. Mi raccomando, non dimenticate la scarpetta sulle scale che portano al municipio. Allora, questa l'avete sentita, radioascoltatori, no? È vera, è reale, accade nella nostra bella Italia. Finito il racconto, io vorrei chiamare in causa il nostro amministrativista Doc, colui il quale chiamiamo nelle Mission Impossible, l'avvocato Gaetano Viciconte. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno. Sta bene? Tutto bene, grazie. Fantastico. Allora, avvocato, che cosa vogliamo dire? Ci provi lei. Ma è una vicenda effettivamente paradossale, considerando che la giurisprudenza proprio su casi analoghi si era pronunciata in maniera molto rigorosa. Cito per tutte una sentenza interessantissima della Corte dei Conti della sezione giurisdizionale Umbra, quindi una sentenza che riguardava proprio un'ipotesi di assenza per pausa caffè. In questa vicenda la Corte dei Conti dell'Umbria ha ritenuto che i dipendenti che si assentavano anche per un breve periodo per pausa caffè in realtà provocavano un danno erariale all'ente di appartenenza, perché l'orario di lavoro è un obbligo da assolvere continuativamente e questo istituto della pausa caffè non è un istituto giuridicamente rilevante. Certo. In questa vicenda, come dicevo, la Corte dei Conti ha condannato il dipendente a restituire al datore di lavoro quelle somme che erano state indebitamente conseguite in un periodo non lavorativo. Ecco, io ovviamente dico ai nostri radioascoltatori, io cercherò attraverso la redazione il giudice per l'udienza preliminare, perché voglio sentire anche la sua voce. Però questa cosa intanto dovevamo farla, questa puntata, perché è talmente gustosa che bisognava farla intanto, rappresentarla ai nostri radioascoltatori. Ma secondo lei, Viciconte, che cosa può aver indotto un giudice, stiamo fantasticando, ma ragionando a voce alta, in attesa di sentirlo, a emettere questo tipo di decisione a fronte, come ci diceva Manno, che a meno che non dica il falso è credibilissimo, ed è credibilissimo, a fronte del fatto che i dipendenti hanno detto sì, è vero, noi stavamo dall'altro capo della città per prenderci un caffè, dovevo prendere le medicine. Ecco, cosa può spingere un giudice ad una motivazione del genere? Ma io non ho letto la motivazione, ma certo, desumo che il giudice avrà accolto le tesi della difesa che in realtà la Corte dei Conti dell'Umbria aveva rigettato, vale a dire, certo, che la pausa caffè costituisce una prassi consolidata nelle amministrazioni, che pertanto non può determinare un fatto illecito in considerazione di questa abitualità che poi si era protratta nel tempo. Bene, cioè, per la Corte dei Conti dell'Umbria questa è stata un'argomentazione non plausibile, evidentemente per il giudice siciliano è invece diversa. Allora, io ringrazio l'avvocato Gaetano Viceconte per il suo intervento, l'omologo avvocato Fulvio Manno per la sua testimonianza e denuncia, cercheremo il giudice per l'udienza preliminare. Sono circa le 7 del mattino, se vi trovate a Ragusa magari pensate anche ad una piccola pausa caffè, mi raccomando però non più lunga di 30 minuti, anche se volete fuori dagli uffici pubblici. Da Roberto Galullo grazie a Peter Bescapè in studio Laura Fagin e buona giornata a tutti.